in quella era la Rhodesia, il secondo Chimurenga. Da lì appunto l'abbattimento dell'apartheid, l'abbattimento della, del colonialismo sudafricano, dei bianchi sudafricani, e l'inizio dell'indipendenza dello Zimbabwe all'inizio degli anni 80. Il concetto Chimurenga è utilizzato anche in riferimento al programma di riforma agraria intrapreso dal governo dello Zimbabwe, che tra l'altro alcuni chiamano terzo Chimurenga, ed è una riforma agraria che almeno inizialmente era, prevedeva una sorta di redistribuzione della terra alla popolazione nera attraverso riforme economiche e agrarie, appunto. In un contesto moderno la parola significa, denota una lotta per i diritti umani, la dignità politica e la giustizia sociale, e l'espressione è usata anche in contesto della musica attuale dello Zimbabwe, la musica Chimurenga. Quindi il primo Chimurenga è ora celebrato nello Zimbabwe come prima guerra di indipendenza, ed è anche conosciuto nel mondo in lingua inglese come seconda guerra Matebele. Il secondo Chimurenga, noto appunto come guerra di liberazione dello Zimbabwe, fa riferimento alla guerriglia dai 66 ai 79, portò poi successivamente alla fine del dominio delle minoranze bianche in Rhodesia e all'indipendenza dello Zimbabwe. Questo conflitto è visto dalla maggioranza dei cittadini dello Zimbabwe come un conflitto per il cambiamento democratico attraverso una guerra di liberazione nazionale dal colonialismo e dal razzismo. E quindi appunto Chimurenga è una sorta di uru, è una parola swahili e quindi essenzialmente utilizzata nell'area immediatamente attorno all'equatore, Kenya, Tanzania, Uganda, anche Congo, mentre invece Chimurenga è utilizzato nell'Africa del sud, Zimbabwe, ma anche Zambia, Sudafrica, Namibia. Ecco appunto, questa trasmissione di oggi vi propone questi brani Chimurenga che sono stati raccolti da noi, che appunto, come dicevamo all'inizio, fanno parte a sua volta di raccolte su LP o su CD, di cui molto spesso di cui sempre i proventi andavano a finanziare iniziative di lotta o comunque iniziative per una giustizia sociale. Il primo brano che vi facciamo ascoltare è Vukani Mawethu ed è tratto dall'album Amandra. Amandra a sua volta significa libertà nella lingua Shona. Gli interpreti non sono cantanti, interpreti professionisti o conosciuti, ma sono persone che a sua volta facevano parte dei cori o delle bande, bande in senso musicale, delle varie squadre, dei vari plotoni, dei movimenti di liberazione. E quindi appunto sono tutti brani, come dire, di dominio, brani popolari in cui non c'è un autore particolare e in cui non ci sono degli esecutori particolari. Il primo brano appunto è Vukani Mawethu, è tratto da questo album Amandla, che era un album che si riprometteva di diffondere la lotta anti-apartheid dell'African National Congress. Vukani Mawethu. Njani sizwe sakithe sintundu safa sibekile sibulawa ngamabhulu njani sizwe sakithe sintundu safa sibekile sibulawa ngamabhulu namhlaba wethu sunciphile ngenxa yabelu Amanda. munye ma Afrika Isita setu sinamata Nobu pili Ukani mawetu sitatizeletu Ukani nonge mawetu sitatizeletu Ukani mawetu sitatizeletu Ukani nonge mawetu sitatizeletu Ukongolo saga ketita nebini esisu Soko basimu ye prossimo brano, a differenza dei precedenti, a differenza di quelli successivi, vede un interprete ben preciso, con un pezzo musicale ben preciso, cioè non si tratta di un pezzo musicale che era cantato in coro o comunque durante le manifestazioni, e l'autore sono i Kalahari Surfer. L'autore è sono perché appunto i Kalahari Surfer sostanzialmente è Warrick Sony, un compositore, produttore, musicista e anche ingegnere del suono sudafricano bianco, nato a Port Elizabeth nel 58. La particolarità è che Warrick Sony, cui tra l'altro Sony non è neppure il suo cognome, nome d'arte, cognome d'arte, in realtà si chiamerebbe Warrick Sweeney, è l'unico membro permanente Kalahari Surfer, e di volta in volta durante la produzione dei suoi CD, dei suoi album, chiamava a collaborare altri musicisti, e lui rimaneva l'unico lui rimane l'unico nel corso del tempo è sempre presente, e appunto Kalahari Surfer sostanzialmente sono Warrick Sony. E la particolarità è che è stato il primo bianco a portare avanti un progetto musicale radicale anti-apartheid. Lui intende analizzare come un fishing group, ma in realtà è stato anche perché è stata decisa, portata avanti questo particolare modo di utilizzare di volta in volta altri musicisti, proprio per proteggere i musicisti stessi dalle autorità e quindi dalla possibilità che venissero processati dal regime dell'apartheid, proprio perché appunto lui era bianco, gli altri erano neri, e questo è stato il primo gruppo pop radicale bianco anti-apartheid in Sudafrica. Si parla appunto dell'inizio degli anni 80, quando Warwick Sony incise una sua prima cassetta in casa, Home Record, come dice lui stesso, e poi successivamente ha portato avanti questo progetto che tuttora è in pieno svolgimento. E di lui vi facciamo ascoltare un pezzo che era presente nell'album Beat Apartheid e si intitola appunto Township Beat. Some of us work and some of us play. Somewhere in the city we make money every day. We play the games of the wealthy patrons of the state and do the clubs at night. We need to fornicate. We need to suffocate in the lap of luxury. It is a fashionable street. We like the township beat. The only thing that moves our feet. This is the life of the white in Johannesburg. Removed from reality, haven't you heard? The Rolling Stones are here. They're throwing stones out there. Some of us work and some of us play. Some of us have to live with police every day. They do the township beats. They keep them running in the streets. Even the little ones have got no shoes upon their feet. And the police beat. There's no fashionable street. But we like the township beat. It's the only thing that moves our feet. Rise up, rise of this country have now stood up and said, I want to state it categorically, this government is a tool. This government is a tool. This government is a tool. Sempre all'ascolto di Uru su Radio Wombat, wombat.noblogs.org, il sito dove appunto potete ascoltare lo streaming in diretta, potete accedere alla pagina podcast in cui ci sono i podcast di tutte le trasmissioni che sono state, che sono andate in onda, fra cui anche chiaramente Uru, e il palinsesto e anche le notizie della radio. Abbiamo come Radio Wombat anche profilo Twitter, Radio Wombat FI, la sella elettronica postale con cui potete mandarci suggerimenti, critiche, insomma quello che volete, quello che pensate possa essere utile al funzionamento della radio, posta Wombat @insiberia.net. Uru tra l'altro ha anche un proprio profilo Twitter in cui twittiamo non soltanto notizie rispetto alla trasmissione, ma più in generale rispetto a quello che succede nel continente nero in Africa. E dal 23 febbraio al 2 marzo si terrà il FESPACO in Burkina Faso, il Festival Panafricano di Cinema, e che quest'anno festeggia il cinquantenario. Il FESPACO è nato infatti nel 1969 a Ouagadougou, la capitale dell'Alto Volta diventata Burkina Faso nel 1984, e riunisce professionisti provenienti da tutto il mondo. Quindi quella che era la capitale dell'impero Mossi, Ouagadougou appunto, si è evoluta nel corso dei secoli in una metropoli cosmopolita. Questo è anche il luogo per eccellenza della memoria del cinema africano. È per questo motivo che è l'unica città al mondo con una piazza che si chiama Registi, e dove si svolge ogni anno appunto una cerimonia in ricordo dei registi africani deceduti. E la prima statua che si incontra è quella del famoso regista senegalese Sembène Ousmane. Il Festival del Cinema che si svolge in questa città ha incarnato e continua tuttora a incarnare un sogno, quello di donne, uomini appassionati e anche ossessionati dalla mancanza di immagini e storie in cui gli africani del continente e della diaspora possano riconoscere, identificare e forgiare la propria coscienza dell'essere. Il panafricanismo ha creato e continua a far crescere ancora oggi, dopo 50 anni, il FESPACO. La convinzione nella capacità del cinema di esplorare il mondo e la società, di partecipare alla costruzione dell'umanità nella sua diversità, è ciò che rende il FESPACO diverso da ogni altro festival cinematografico. E l'ambizione di questo festival è stata e rimane quella di offrire uno spazio di confronto e di condivisione e costruzione di un ricordo oltre che un presente e un futuro. Tra l'altro il FESPACO non è soltanto il festival che si terrà appunto dal 23 febbraio al 2 marzo, ma è anche una fondazione che protegge, salvaguarda i film africani e che sta cercando di salvaguardare specialmente i primi film, quelli che vanno dagli anni 20 agli anni 50 del 1900, perché praticamente sono le prime immagini in movimento cinematografiche dell'Africa, di questo continente. E il prossimo pezzo è un pezzo composto, in questo caso eseguito, anche eseguito dal Dizzen de Banana Beats, che veniva però, o almeno alcune parti di questo pezzo museale venivano utilizzate durante le manifestazioni contro l'apartheid. È un pezzo tratto da un album, da un vinile, Remember Soweto, Ballet Won't Stop Us Now, un bellissimo vinile, in cui tra l'altro c'è anche una, un inserto cartaceo di ben 36 pagine che spiega quello che è l'apartheid in quel momento in Sudafrica. È un LP uscito nell'86, a 10 anni appunto da la rivolta di Soweto. Il pezzo si intitola Destroyed Apartheid. Thank you. E parlando proprio di Zimbabwe, la scorsa settimana ci ha lasciato Oliver Muzuduzi, che abbiamo ascoltato anche in questa trasmissione, uno dei musicisti simbolo dello Zimbabwe e una delle voci della rivoluzione contro il predominio delle minoranze bianche. E infatti Tukuzi aveva alle spalle 40 anni di carriera, iniziata negli anni 70, quando appunto cominciò la sua carriera con i suoi testi che contenevano spesso messaggi politici per la liberazione dello Zimbabwe. Tuku, come era soprannominato il cantante e chitarrista, è diventato famoso anche per il suo personale stile musicale, un afro jazz noto appunto come Tuku Music. Nella sua lunga carriera ha pubblicato 67 album. Il suo ultimo lavoro, Aniaga, che si traduce come preoccupazione nella lingua shona, uscito a febbraio 2018, affronta temi importanti, dai matrimoni infantili alla fusione economica, alla mancanza di interesse per la vita umana. E il prossimo è un pezzo museale eseguito dal coro dello ZANU, Zimbabwe African National Union, organizzazione militante appunto ha combattuto una delle organizzazioni militanti hanno combattuto l'apartheid fino alla liberazione, possiamo chiamarlo così, dello Zimbabwe, fino all'indipendenza dello Zimbabwe. E il pezzo è tratto dalla raccolta Chimurenga Songs Music of the Revolution. E il pezzo si intitola appunto Gona Re Chimurenga Rapeze Bunu. Gona Re Chimurenga Rapeze Bunu, Gona Ira Kala Namu, Gona Re Chimurenga Rapeze Bunu, Gona Ira Kala Namu, Tetra Kufa Paro Se Kumbisha Wawe, Gona Ira Kala Namu, Tetra Kufa Paro Se Kumbisha Vi ricordo che Uru che va in diretta il venerdì alle 21.30 ha due repliche, la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8.30. quindi lo potete ascoltare in streaming da wombat.noblogs.org oppure lo potete ascoltare in onde medie, in AM, all'1359. Se vi siete persi qualche puntata, potete scaricare i podcast dalla pagina podcast del sito wombat.noblogs.org, non solo di Uru naturalmente, ma di tutte le trasmissioni della radio. È una notizia dal Sudafrica, siamo sempre nella stessa zona, nella stessa parte dell'Africa, e il responsabile dell'Università di Pretoria, ricordiamo la capitale, o meglio è una delle tre capitali del Sudafrica, e comunque in cui vi è la sede più vi ha sede l'università più importante del Sudafrica, hanno deciso che i corsi non verranno più tenuti nella lingua Afrikaans. Ricordiamo che la lingua Afrikaans era la lingua dei Boeri, la parte bianca della popolazione, che era quella il nucleo dell'apartheid. La decisione infatti è stata presa per trasformare la cultura dell'Ateneo e per renderla veramente sudafricana. E l'Afrikaans, appunto, come dicevamo, è un idioma che mescola espressioni africane alla lingua olandese, appunto la lingua dei colonizzatori boeri, ed è parlata da alcune migliaia di persone tuttora. La maggior parte dei sudafricani però la considera appunto la lingua coloniale e dell'apartheid, e durante il regime segregazionista i leader bianchi la imposero come lingua principale del paese e come strumento per escludere gli studenti neri che non la parlavano appunto dagli studi. Ricordiamo anche che fu proprio il massacro di Sharpeville, durante una manifestazione di studenti che appunto protestavano contro l'imposizione della lingua Afrikaans come unica lingua di insegnamento. E ci ascoltiamo adesso sempre dall'album Amandla, Sidya Lila. Yeah. riprendiamo dal sito Africa is a Country, che è un sito che ha molti articoli che sono riflessioni politiche sulla situazione specialmente della parte sud dell'Africa. Riprendiamo questo spunto per parlare dei sindacati minerari dello Zambia, che sono legati più alle imprese che generano profitti che all'azione collettiva sindacale. Infatti le sedi sindacali sono situate sulla proprietà delle società e richiedono la concessione di licenze da parte del governo. Ogni sindacato inoltre gestisce negozi nel luogo di lavoro, vendendo beni di prima necessità a credito a propri membri con un elevato margine di profitto. E poiché i pagamenti vengono detratti direttamente dalla busta paga per ridurre le inadempienze, i sindacati praticamente hanno bisogno che la cooperazione con i datori di lavoro, cioè con le imprese minerarie, sia continua. Alcuni sindacati possiedono addirittura i bus che trasportano i lavoratori da casa al cantiere, il contrario. Quindi la dipendenza da queste nuove fonti di reddito ha ridotto la militanza, mentre crescono le interazioni quotidiane con le società minerarie. Molti minatori che sono membri del sindacato stanno mettendo in discussione l'importanza di un sindacato fatto in questo modo, a che cosa serve per i diritti dei lavoratori. Così i lavoratori passano da un sindacato all'altro sperando di trovare un sindacato che sia differente, per scoprire poi che tutti i sindacati offrono tutti gli stessi tipi di servizi, nel senso di profitto. Quindi fino ad ora la struttura dei sindacati è stata una risposta volta a mitigare piuttosto che a sfidare i cambiamenti strutturali del neoliberalismo zambiano. Tant'è che si stanno aprendo tra i lavoratori minerari dibattiti sulla militanza sindacale, che vogliono che lavori con i movimenti sociali che attraversano invece lo Zambia, e con le altre organizzazioni della società civile che combattono per i diritti, combinando le questioni sul posto di lavoro con questioni politiche più ampie, specialmente riguardo alla identità di classe. E il prossimo pezzo, sempre nella logica che abbiamo con cui abbiamo fatto ascoltare i brani di questa puntata, è un pezzo di Longfellow, Martin Magarula, Let Me Tell You White People of South Africa, tratto dalla raccolta Uhuru wa Africa. And now we're ready to swing to South Africa and see what white racist murderers are doing to African peoples. They kill them because of their color. Isn't it a shame? The white people who for a long time professed all types of philosophies are now unable to analyze the concept of color. Let me tell you, white people of South Africa. Let me tell you, white people of South Africa. There is some time you're gonna miss me. There is some time you're gonna love me. There is some time you're gonna die. Your body is not immortal. You are subject to death. You are subject to tropical diseases and the putrefaction of all types of death. You are not a speciality to the African continent. Let me tell. South Africa. Let me tell you, black people, South Africa. This is the time you have to be free. This is the time you have to fight. This is the time you have to be free. Fight against white man. Fight against apartheid. Fight against racism. Fight against capitalism. Fight against colonialism. Fight against imperialism. Even the biggest gentleman in Europe who are engaged in the sale of arms in South Africa, it won't do them any good. Their hands will come full of blood which will spill over European children. Let me tell you, black people, South Africa. Let me tell you, black people, South Africa. This is the time you have to be free. This is the time you have to fight. This is the time you have to be free. Let me tell you, white man of South Africa. Let me tell you, white man of South Africa. There is some time you're gonna miss me. There is some time you're gonna love me. There is some time you're gonna die. E ci sentiamo un altro pezzo dall'album Remember Soweto, Bullets Won't Stop Us Now. In questo caso si tratta di Le Bombo con Katawe. Thank you. E sì, sempre a proposito di musica e danze legate alle organizzazioni, ai movimenti e alle iniziative anti-apartheid, un accenno al Toi Toi. Durante il corso del regime l'apartheid, i movimenti di resistenza anti-apartheid hanno avuto varie evoluzioni, hanno cambiato forma da sindacati liberamente organizzati non violenti a coalizioni armate. In tutto questo la musica è sempre stata presente. Più di ogni tipo di esibizione è stato di arte, è stato l'atto del canto comune che è servito come combustibile, diciamo, per il movimento e ha aiutato in molti casi a far luce sull'ingiustizia dell'apartheid e a tenere alto lo spirito del popolo, lo spirito dei neri. Durante i primi anni dell'apartheid le canzoni scaturite all'interno della comunità nera erano critiche nei confronti del regime ed esprimevano proteste politiche palesi. La condanna a morte eseguita a Pretoria di uno dei più influenti cantanti politici, Wisile Mini, e la distruzione di quello che era l'area creativa del paese, Sophia Town, di cui vi abbiamo parlato anche in precedenti puntate di Uru, è stata un duro colpo per gli artisti anti-apartheid. Ha provato l'esilio di molti artisti e musicisti di spicco, tra cui Miriam Makeba, Yugma Sekel, Abdullah Ibrahim. E chiaramente in combinazione con la costante e diffusa prigionia dei leader della resistenza, delle uccisioni durante manifestazioni, queste canzoni molto spesso, queste canzoni popolari di protesta sono molto spesso anche canzoni di lutto. Dopo la rivolta del Soweto divenne chiaro il movimento che il governo sudafricano non era interessato al dialogo e migliaia di giovani lasciarono il paese. Al loro ritorno hanno portato anche le competenze tecniche per organizzare e combattere e lottare, e anche un nuovo suono, questo il Toi Toi. Il Toi Toi è una danza del Sudafrica originariamente creata nello Zimbabwe. Ricordiamo che lo Zimbabwe si è reso indipendente dalla dominazione bianca molto prima del Sudafrica, e appunto molti neri artisti militanti sudafricani erano emigrati nello Zimbabwe, e quindi alla fine del regime apartheid il Toi Toi, che era nato nello Zimbabwe, la forza dell'esercito rivoluzionario del popolo, dello Zipra, dello Zimbabwe, che era stato a lungo utilizzato nelle proteste politiche nello Zimbabwe, è tornato, è arrivato anche in Sudafrica e è stato parte della colonna sonora delle manifestazioni. E Toi Toi, come magari alcuni hanno visto durante vedendo le manifestazioni di protesta durante, ma anche tuttora, partendo dei neri sudafricani, inizia con un battito di piedi e canto spontaneo durante le manifestazioni e include slogan politici o canzoni improvvisati o creati in precedenza. Quelli che vi abbiamo fatto ascoltare fino ad ora fanno tutti parte del repertorio Toi Toi. E vi facciamo ascoltare un altro pezzo, sempre di quello che era il coro dell'African National Congress, che fa parte appunto di questa raccolta, e si intitola Amandra. Il pezzo si intitola Kulonioha. Pezzo si intitola Kulonioha. Kulonioha, si sentisse lì. Kulonyaka, sisi misele, kubuha kwaza la makulu. Omkonjo we sizwe, sikatali, noma sibulawa, solidwe liliswe. Nona semzanti, sikatali, noma sibulawa, solidwe liliswe. Nona semzanti, sangana Africa, so I know. nani in Africa so ano basimune bona la mabunu Questo era l'ultimo pezzo, e c'è una bella foto, una bella immagine del Toy Toy, di questo ballo particolare in cui c'è un muro in questo caso di ferro con un filo spinato sopra, e da una parte dei ragazzini che appunto lo ballano, e di là un furgone della Scheller, un furgone della famigerata brutale polizia sudafricana, in cui appunto ci sono questi bianchi che controllano, ma non tanto bene, la situazione. Finisce qui la trasmissione, vi aspettiamo la prossima settimana. Ciao a tutte e tutti. Siya jabulatina, helele mama, helele mama, siya jabulatina, helele mama, helele mama, siya jabulatina, helele mama, helele mama.